WZ ad Aprilia LT Rates, uno fresh JD1. Vai così, non pensavi che tornassimo. Cerchi pali di frassino, ma è peggio vampiri, sono già qui. Lasciatemi spazio, fornitemi l'ossigeno. Ho perso il respiro, ma in fondo è sempre quello il sintomo. L'istinto che suscita scandalo, chiamami vandalo. Ma mi distingo in toto dal tuo rap fruttivendolo. È scandalo, dicevo, questo qui è il secondo disco. Un altro po' ci davano dispersi pure a chi l'ha visto. Cristo, quando salgo sul palco io ti conquisto. L'ha detto anche la tua ragazza, ma non me la rischio. Fischio a chi in Italia non apprezza il rap maschio, a differenza di tutti sti trans raschio. In fondo da tempo ma lo sai già, la WZ rimanda poco questa città. Non mi credevano quando dicevo attenti, adesso tutti quanti dall'odontoiatra per rifarsi i denti. Li ho presi a calcio ed erano solo i riscaldamenti. Mo che inizia sta partita, sarà palpi di quelli. Arrivo sopra gli schemi, attivo esplosivo. Mentre cerchi un diversivo al fine di combattere sto marchio che ti imprimo. Passo e chiudo come chiudo, stronzi e dico vaffanculo. Non mi inculo più nessuno tranne Fresh ed MC1. Due le lettere stampate sopra il vostro grasso culo. WZ, ma soffia già solo, è già qui. Vi trovo impreparati, chiusi, impacchettati, impacchettati. E tutti quanti omologati, perciò straccio le vostre critiche. Scrivo le mie rime come sento io di scriverle. Vivo le giornate come sento io di viverle. Ed ogni vaffanculo che mi butta è come quello prima sterile. No, che non è soltanto un'illusione. Rizz è il nome di chi vigila di notte tipo Batman. Barman del rap frullato con le rime più alcolico del room. Ti punti butto giù prima che possa addirittura percepirci. Ci credevi lontani, mo vieni ad aprirci. Guarda bene in mano chi detiene il gioco di questa musica ormai sudicia di gente cubica che impara tre parole in inglese. Yo man nella scena da vent'anni senza tante pretese. Com'è che non si sente più nessuno? Scrivo rime che mi rendono altamente scomodo MC1. Guardati in faccia appena iniziata la caccia, gente come te che senza vergogna le rime spaccia. Basta! Diamoci un taglio a tutta questa merda che ti rende ridicolo nel cunicolo della vergogna. Carichi di rogna di gente che sogna ma che finisce ogni anno nella fogna. Quel po' di pop che c'è intorno a te tienilo vivo. Non fare come al tuo solito lo sguardo schivo furtivo. Da chi dietro a un beat fa il cazzone, quando lo incroci vedi lo sguardo tenero da cucciolone. Pretendi di insegnarmi le tue leggi della strada, chi sbaglia poi paga. Chi siete? Papone mignota. Pensavi davvero fosse quella la mia ultima botta? È ancora mamma che ti paga ogni sigaretta ed ogni tua vita. Benissima bolletta, devo, è ancora la tua mano che ti stimola in fretta.